Per presentare la figura di Assiotea di Fliunte, prendo a prestito le parole dello stesso autore tratte dalla postfazione del libro e dal suo articolo per l'Enciclopedia delle Donne. Per 40.000 anni, scrive Adriano Petta, fino a quando la donna ebbe il ruolo di guida nella società primitiva, ci fu un mondo in pace. Poi i faraoni egiziani e i re semiti, sumeri e assiro-babilonesi crearono i primi eserciti di aggressione, impadronendosi anche del potere religioso, proclamandosi rappresentanti degli dei, re delle quattro parti del mondo, re della totalità. E così, due eserciti che si scontravano, a capo avevano due dei, o due vicari in terra degli dei, e per loro conto potevano massacrare e predare. L'uomo era montato a cavallo della storia, relegando la donna nell'unico ruolo della riproduzione della specie. Ebbe così inizio la nuova era, quella delle guerre. E da allora, da migliaia di anni, il nostro pianeta conosce solo conflitti sanguinosi, genocidi, violenze e aggressioni. Il mito della dea di Anne Bering e Jules Cashford, suffragato da innumerevoli prove storiche e archeologiche, contribuisce a chiarire questo concetto. A scuola ci hanno fatto credere che Platone abbia rappresentato il culmine della filosofia greca, colui che ha rivoluzionato la storia del pensiero, ma io, scrive ancora l'autore Adriano Petta, ho letto i testi platonici originali e mi sono reso conto della truffa perpetrata ai danni dell'intera umanità da parte della cultura occidentale dominante. Con Platone la filosofia dei pensatori greci ha toccato il fondo, non l'apice. Prima di lui c'erano stati i veri grandi scienziati filosofi, Talete, Antifonte, Antistene, Anassagora, Leucippo, Democrito, pensatori a cui si ispirava anche Ipazia di Alessandria, pensatori che avevano tentato di indagare il mondo che ci circonda con la ragione. Invece Platone ha fatto di tutto per cancellarli dalla storia, per poter trionfare con la sua visione dell'anima e i suoi dei spietati. Assiotea di Fliunte, contemporanea di Ipazia, riuscì ad essere ammessa all'Accademia di Platone nel 345 a.C., quando il filosofo era ormai vecchio. Ma per poter partecipare dovette vestirsi da uomo, tagliarsi i lunghi capelli neri e fasciarsi i seni con delle strisce di cuoio. La storia ci ha tramandato molto poco sulla sua vita. Quando parliamo dell'antica Atene, il nostro pensiero va subito al luogo mitico dove nacquero le moderne libertà, la democrazia, il pensiero filosofico, però in quel mondo la condizione della donna era deprimente, spaventosa. E nell'Accademia di Platone, dove ci si interrogava sui problemi filosofici più profondi e sui misteri del destino dell'uomo, la donna non contava nulla. Il signor Platone, il misogino filosofo che scriveva tutto di tutti, migliaia di pagine, di Assiotea non ha lasciato nemmeno il nome. Ma Platone era anche quello che aveva bruciato 70 libri del grande rivoluzionario Democrito, proibendo agli allievi dell'Accademia persino di pronunciare il suo nome. Le donne in Grecia, così come gli schiavi, non potevano partecipare alla vita della città, non potevano assistere né votare alle assemblee pubbliche. Potevano soltanto fare figli. Nonostante i libri centrali della Repubblica tentino di sviluppare il dibattito sulla posizione della donna, sopprimendo la differenza dei sessi, è chiaro il pensiero di Platone: la donna è inferiore all'uomo per natura. Mentre per Aristotele, l'allievo più prestigioso di Platone, la donna è uno scarto della natura. E Assiotea, per essere accolta nella cerchia dei discepoli di Platone, dovette appunto travestirsi da uomo, nascondendo la sua natura. Quella natura di donna che, secondo Platone e Aristotele, era priva persino dell'anima. Adriano Petta, amico e sostenitore della scuola delle donne, ci ha gentilmente concesso la liberatoria per leggere un altro suo meraviglioso romanzo storico di una grande donna. Di Adriano abbiamo infatti già proposto Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo, disponibile in audio sul nostro canale YouTube. Ipazia, l'insegnante e libera pensatrice che che nell'Alessandria del IV secolo a.C. fu trucidata dai monaci cristiani parabolani per ordine del vescovo Cirillo, oggi santo e padre della Chiesa. La sua colpa? Essere donna. Assiotea di Adriano Petta è edito da Stampa Alternativa e letto da Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.